Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Lo scenario altalenante dei mercati non aiuta chi sta pensando a come investire i propri risparmi, una situazione per la verità dalla quale stiamo parlando ormai da diversi mesi, per non dire da diversi anni. In Italia, con la bocciatura inferta al debito da Standard & Poor's il 19 settembre, molti potrebbero chiedersi, si stanno chiedendo, lo stanno facendo da quei giorni, se è il caso o meno di conservare i titoli del tesoro nel proprio portafoglio. Dopo le ultime aste, i rendimenti di BTP e BOT sono aumentati, ma per chi è alla ricerca dell'investimento sicuro aumentano i dubbi. Oggi a Salva Danaio riproponiamo il tema dell'investimento nel settore dei bond governativi, dei titoli di Stato, facendo anche magari un paragone con quello che sta accadendo nelle altre economie dell'Eurozona. Come sta cambiando l'approccio a questo tipo di investimento da parte delle famiglie italiane? Come si muoveranno prezzi e rendimenti nel breve e nel medio periodo, dati gli scossoni subiti dai nostri BOT e dai nostri BTP nelle ultime settimane? Nelle aste di ieri ci sono stati diversi segnali da considerare. È stata una giornata estremamente positiva per le borse, lo spirito positivo si è trasferito anche sul mercato obbligazionario, perché le aste sono ben riuscite, ma i rendimenti chiesti dal mercato sono sempre più alti, persino più alti di quelli chiesti alla Spagna. E allora, come è cambiata anche la strategia di gestione da parte degli esperti del settore dopo la decisione e il verdetto di Standard & Poor's? Noi stamattina parleremo di tutto questo. Intanto mi scuso per il naso totalmente attappato, cominciano le prime influenze di stagione nonostante sia ancora molto caldo. Parleremo di tutto questo intanto prendendo a spunto le vostre domande, se vorrete rivolgercele all'800240024, con due esperti del settore: Felice La Fortezza, responsabile del settore mercati obbligazionari della struttura di Personal Financial Advisory di Banca Intermobiliare. Dottor La Fortezza, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E benvenuto anche a Roberto Antonielli, gestore di Allianz Reddito Euro. Antonielli, buongiorno, ben trovato anche lei. Grazie, buongiorno a tutti. Oltre al numero verde avete anche l'opportunità di scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Invece il mercato stamattina cosa fa? È ballerino, perché le borse, dopo i rialzi di ieri superiori al 5% in molte piazze del vecchio continente, è andata discretamente bene anche la seduta Wall Street. I listini del vecchio continente, dicevo, sembravano volerci ripensare o quantomeno incassare dai rialzi appunto degli ultimi tre giorni, e poi a metà seduta, anzi un po' più in là di metà seduta, c'è stato un cambio di direzione. Adesso il quadro è positivo ovunque. Londra più 0,17, molto meglio vanno le cose a Parigi più 0,46, DAX Francoforte più 0,73%, Milano più 0,85% adesso sul FTSE MIB. Il mercato ovviamente guarda con trepidazione, fino all'ossessione in qualche giorno, all'evoluzione della crisi greca. Oggi i riflettori sono puntati sul voto della Finlandia, sul rafforzamento del fondo salva stati, ma soprattutto l'appuntamento centrale è quello di domani, quando si esprimerà su questo il Parlamento tedesco. Come sapete, la cancelliera Angela Merkel è contraria ad un allargamento appunto del fondo salva stati, ora limitato a 440 miliardi di euro, ma sembra che ci sia una necessità di un ampliamento ben più vasto, fino a 3.000 miliardi di fondo, e quindi insomma la presa di posizione tedesca è molto nota, e chissà che domani non la ratifichi anche il Parlamento tedesco, sarebbe un bel problema. Il governo greco sembra essere sicuro che la nuova tranche di aiuti da 8 miliardi arriverà ad ottobre in tempo per evitare il default, e quindi insomma situazione molto fluida che cambia di giorno in giorno. In ogni caso il mercato azionario appunto torna a spingere, il FTSE MIB adesso è più 0,9%, i titoli che vanno bene Fondiaria più 4, Buzzi Unicem più 3,43%, Lottomatica più 3, Atlantia più 2,73%, Pirelli ed Impregilo in rialzo di 2 punti, benino anche le altre banche, Unicredit più 2,33%, Monte dei Paschi più 2,12%, Intesa in rialzo di un punto. Stamattina ha subito il giudizio di Fitch, l'agenzia di rating, che ha rivisto appunto l'outlook sulla banca. Il peggior titolo è Tenaris, sta perdendo il 3%, meno 0,9% TOTS, meno 0,6% per Snam Rete Gas. Si rafforza l'euro sul dollaro, segnale di un clima più disteso appunto nell'eurozona, 1,36,58. E visto che noi oggi parliamo di titoli di Stato e dell'andamento delle ultime aste appunto del Tesoro italiano, come vi ho già anticipato nel giornale radio, stamattina il Tesoro ha assegnato in asta 750 milioni di BTP decennali indicizzati all'inflazione dell'area euro. Il rendimento lordo che si è dovuto riconoscere è stato del 4,29%, in aumento dello 0,22% appunto rispetto all'asta precedente. Comunque il mercato ha chiesto 1,5 miliardi di euro a fronte appunto di un'offerta da parte del Tesoro che era praticamente la metà. Questo è stato un buon segnale, ma in ogni caso il mercato ci chiede appunto rendimenti sempre più alti, esattamente come è accaduto nelle ultime aste. Lo scenario altalenante dei mercati azionari e obbligazionari non aiuta chi sta pensando a come investire i propri risparmi. La BCE continua ad acquistare i titoli di Stato dell'area euro, anche se in misura minore settimana dopo settimana, mentre la Grecia resta in attesa della tranche di aiuti prevista per ottobre e dopo il G20 si rincorrono le voci sulla manovra da 3.000 miliardi per salvare la nostra moneta. In Italia, con la bocciatura inferta al debito da Standard & Poor's, molti potrebbero chiedersi se sia il caso o meno di conservare i titoli del Tesoro nel proprio portafoglio. Dopo le ultime aste, i rendimenti di BTP e BOT sono aumentati, ma per chi è alla ricerca dell'investimento sicuro, aumentano anche i dubbi. La scorsa settimana lo spread, il differenziale tra i BTP a 10 anni e i Bund tedeschi, considerati in assoluto come i più sicuri, è tornato a scavalcare la barriera psicologica dei 400 punti, avvicinandosi ai livelli record dell'inizio di agosto. Con le preoccupazioni portate dai continui e bruschi cambiamenti, cresce anche la necessità di mantenere basso il profilo di rischio e i risparmiatori si chiedono se e come riposizionare il proprio portafoglio. Chi mette al primo posto la liquidità potrebbe spostarsi su conti correnti e conti deposito, mentre per chi mantiene gli investimenti la tendenza è quella di diversificare, non rivolgendosi più ad un unico strumento e cercando così di mettersi al riparo dagli eventi. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, le vostre osservazioni, le vostre considerazioni sul tema di questa mattina. 349 238 6666, se invece ci volete scrivere messaggi brevi. Se ci volete scrivere dei messaggi un po' più lunghi ed articolati, invece potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it. Felice la fortezza, gli ospiti che abbiamo questa mattina sono per la prima volta ospiti di Salvadanaio, per cui ne sono ben contenta. E allora inizio con Felice la fortezza, Banca Intermobiliare. L'asta di ieri dei titoli di Stato, anzi ce ne sono state per tre prodotti, è stato il primo appuntamento del Tesoro italiano appunto dopo il downgrade di Standard & Poor's del 19 settembre sul nostro debito. Prima di chiederle un giudizio su come è andata, mi chiedo che cosa è cambiato per voi gestori del settore dopo il verdetto dell'agenzia di rating, che era atteso ma in ogni caso ha spaventato non poco gli investitori. Sì, diciamo che, come diceva lei, il downgrade è stato inatteso, si attendeva quello dell'altra agenzia di rating, invece la sorpresa è arrivato quello di Standard & Poor's. Diciamo che nella sostanza non abbiamo avuto grosse modifiche nei nostri portafogli, nei portafogli dei nostri clienti, nel senso che ormai il downgrade era scontato dall'altra agenzia, è arrivato a sorpresa da Standard & Poor's, però diciamo ormai gli spread che i titoli di Stato pagano sono ampiamente coerenti con un livello di rating anche più basso di quello attuale, quindi diciamo modifiche sostanziali non ce ne sono state. Roberto Antonielli, posso fare anche a lei la stessa domanda? Confermo che non è stato il downgrade di Standard & Poor's a cambiare la percezione dell'Italia, nel senso che la percezione dell'Italia ormai è cambiata da tempo, perché la volatilità è stata molto elevata e i mercati l'hanno nel proprio mirino ormai da mesi. Standard & Poor's ha certificato una situazione che ahimè era già sotto gli occhi di tutti, per cui il concetto di valutare con attenzione il rischio Paese Italia era già ben presente nei vostri portafogli con un'ampia diversificazione. E la situazione attuale incorpora un'ulteriore riduzione di giudizio da parte di Standard & Poor's, oltre che un nuovo verdetto negativo da parte di Moody's che dovrebbe arrivare appunto il prossimo mese? Rifaccio l'alternanza appunto di domanda. Felice la fortezza. Diciamo che gli attuali livelli di spread, come dicevo prima, sono coerenti anche con un giudizio, diciamo, più basso delle agenzie di rating. È probabile che Moody's possa tagliare effettivamente il rating, diciamo l'agenzia aveva preso un ulteriore mese di tempo per trarre le proprie conclusioni. La situazione rimane molto fluida, quindi diciamo l'Italia ha varato un piano, un pacchetto diciamo molto aggressivo per riportare diciamo il proprio bilancio in pareggio dall'anno prossimo. Questo diciamo è l'obiettivo. Abbiamo una situazione politica ancora molto, molto incerta e questo sicuramente non aiuta e probabilmente potrebbe pesare ulteriormente sul giudizio delle case di rating. Però ripeto, sostanzialmente l'analisi sul debito italiano penso che ormai sia abbastanza insensibile a variazioni di questo tipo, nel senso che nei prezzi sostanzialmente le abbiamo già apprezzate. Mm-hmm. Allora, il tema adesso è capire intanto se è necessario per i risparmiatori molto prudenti che negli anni passati hanno affidato molto del proprio denaro accantonato appunto a questi strumenti di investimento, se è il caso che continuino a farlo o se per proteggere il proprio investimento, il proprio capitale, è necessario cominciare a spostarsi su altro, soprattutto su dove, se ancora, come dire, l'obbligazione è l'investimento al quale continuiamo ad essere maggiormente affezionati. Però sempre rimanendo un po' sull'attualità, poi andiamo all'esame anche delle aste di ieri, i rendimenti piuttosto elevati che i titoli hanno dovuto riconoscere. Per il BOT a 6 mesi abbiamo scavalcato il 3%, per il CTZ c'è stato il balzo più forte al 4,5%. Mi chiedo appunto quanto ancora anche la cronaca politica influenzerà l'andamento dei rendimenti dei nostri titoli, lo spread, quindi il differenziale di rendimento fra il nostro decennale e i paritetici appunto degli altri paesi. Per esempio, quanto conterà un voto o favorevole o contrario del Parlamento tedesco rispetto all'ampliamento del fondo salva stati appunto su complessivamente il mercato obbligazionario, ma anche in riferimento alla situazione italiana? Felice la fortezza. Per esempio, voi gestori, quello che accadrà domani in Germania lo guardate con grande interesse, oppure a questo punto il dibattito politico europeo non lo considerate? No, sicuramente diciamo nei prossimi giorni, domani ci sarà appunto il voto del Parlamento tedesco, ma nei giorni a seguire ci saranno i voti di altri importanti paesi, perché diciamo il fondo dovrà essere ratificato da tutti i 17 paesi dell'Unione. Sicuramente il mercato in questo momento sconta un voto favorevole, quindi che venga effettivamente approvato il piano. Questo dovrebbe dare diciamo un'ulteriore tranquillità al mercato. Negli ultimi giorni lo spread sul decennale è entrato dai 400 punti ai 360 attuali. Non mi aspetto miglioramenti significativi. Quello che probabilmente potremmo vedere nei prossimi giorni è quantomeno una stabilizzazione dello spread, diciamo intorno all'area 350 punti base, che comunque sarebbe già un primo segnale positivo di normalizzazione, diciamo. Esatto. Che cosa invece, poi andiamo già a fare la prima pausa prima di dare spazio alle domande dei nostri ascoltatori, Roberto Antonielli, che cosa invece potrebbe di nuovo scompaginare le carte e far tornare, cosa che non vorremmo mai naturalmente, l'attenzione alle stelle, così come è accaduto agli inizi di agosto, quando per la prima volta abbiamo visto lo spread oltre 400 punti base, tanto da costringere la Banca Centrale Europea ad intervenire sul mercato secondario comprando i nostri titoli? Ma io punterei il dito su due fattori principali, la vicenda greca e in verità anche le ultime novità, le ultime ipotesi che ci sono state fatte su un ampliamento ulteriore del fondo salva stati, perché non dimentichiamo che quello che viene votato domani, l'ampliamento che viene votato domani al Parlamento tedesco, che è già stato votato da altri paesi e presumibilmente all'inizio del mese sarà votato da tutti, è una misura decisa a luglio che è ancora inferiore rispetto alle ipotesi che sono sorte durante il weekend tra G20 e Fondo Monetario, sì. Ipotesi su cui il mercato comincia a puntare parecchio, ecco, per cui il mercato da una parte si aspetta che dopo questo allargamento dell'FSF si possa fare qualcosa d'altro in più per rendere il fondo salva stati ancora più forte. È chiaro che un rischio è che dai paesi più solidi come la Germania ad esempio venga un alto là. Il rischio è che, come già ieri in verità il Ministro delle Finanze ha cominciato ad accennare, che forse non siamo proprio così vicini a un ulteriore ampliamento fino a 2 o 3 mila miliardi di euro come il mercato negli ultimi giorni ha cominciato a ipotizzare. Per cui la situazione greca è il fattore principale a breve, perché se, come pare, la prossima tranche di aiuti verrà disborsata, in verità, se ho capito bene, proprio il recupero delle borse di queste ultime mezz'ora è dovuto all'attesa di un annuncio che deve essere fatto dalla Commissione europea a breve, chiaro, quello è un fattore che riduce il rischio nel breve, però poi ecco, si riaprirà un altro tipo di dibattito e forse ancora più importante. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, noi siamo partiti con così l'intenzione di fare due ragionamenti sull'andamento delle ultime aste del Tesoro italiano, perché gli ultimi appuntamenti, quello di ieri, quello di oggi, un altro molto corposo, ce n'è anche domani, erano appunto i primi appuntamenti che il Tesoro italiano aveva con il mercato e con i finanziatori internazionali dopo il downgrade di Standard & Poor's del 19 settembre. Le aste sono andate piuttosto bene, anche se il Tesoro naturalmente deve ancora convincere, premiandoli un bel po', gli investitori appunto ad acquistare i titoli del Tesoro. I rendimenti sono in rialzo, ma tutto sommato abbiamo anche qualche segnale di stabilità. In tutto questo va avanti il dibattito politico europeo sull'ampliamento del Fondo Salva Stati. Oggi abbiamo il voto finlandese, domani abbiamo quello importantissimo da parte della Germania, con tutto il nuovo scenario che poi si aprirà se il Fondo Salva Stati dovrà essere ampliato ulteriormente. Chi peraltro restituirà tutti questi soldi, visto che naturalmente si vanno a salvare stati in difficoltà che poi dovranno ridare indietro questo denaro in qualche maniera? Insomma, scenari ancora da delineare tutti quanti. E quindi adesso che cosa fa il mercato? Preferisce navigare a vista? Sulle buone notizie il mercato azionario cresce molto, quello obbligazionario si rasserena, non appena arriva però qualche nuvola sull'orizzonte, chiaramente il mercato ne approfitta per rivendere di nuovo, per richiedere rendimenti alti appunto sul mercato obbligazionario. Insomma, scenario, come vi dicevo, estremamente variabile e che vive alla giornata. C'è una domanda, vi ripresento gli ospiti di questa mattina: Felice La Fortezza, responsabile settore mercati obbligazionari per Banca Intermobiliare, Roberto Antonielli, gestore Allianz Reddito Euro. Un ascoltatore ci scrive: tutti consigliano, esperti e politici, di comprare titoli di Stato italiani. Io che lavoro e ho tutti gli asset in Italia, la casa, eccetera, perché dovrei concentrarmi solo su un rischio paese? Non converrebbe comprare solo titoli non italiani? L'ascoltatore è Enrico. Io, Enrico, non credo che tutti consigliano di comprare titoli di Stato italiani o almeno solo questi. Ogni gestore intanto consiglia sempre la diversificazione, che anzi, alla luce di quello che è accaduto nelle ultime settimane, forse si è dovuta ampliare ulteriormente. Allora, Felice La Fortezza, riprendiamo un po' anche la domanda che le ho fatto all'inizio sul cambiamento di strategia che avete adottato, se l'avete adottata dopo il cambio di giudizio di Standard & Poor's sul nostro paese, in atteso, come dicevamo, perché aspettavamo Moody's e invece è arrivato quest'altro. Detto questo, appunto, avete comunque ridotto nel vostro portafoglio la quota di asset appunto obbligazionario in settore in Italia, per quello che riguarda l'Italia, o no? Insomma, come è stato redistribuito il vostro come avete ridistribuito appunto il vostro portafoglio? Sì, come le dicevo prima, sostanzialmente non abbiamo apportato modifiche diciamo dopo l'ultimo downgrade, nel senso che avevamo alleggerito la quota dell'Italia, ma questo nei primi mesi dell'anno. Le ultime variazioni che ci sono state erano sostanzialmente attese e quindi non rappresentavano una novità dal punto di vista appunto della solvibilità e del rischio di credito dell'Italia. Sostanzialmente adesso siamo a benchmark, quindi i titoli di Stato in un paniere europeo pesano per circa il 25-30%, questo potrebbe essere Ci può spiegare, per chi non ha conoscenza della terminologia finanziaria, cosa significa nel settore obbligazionario essere a benchmark? Sì, vuol dire sostanzialmente che il peso del debito italiano, diciamo riferendoci a tutto il debito dei paesi europei, rappresenta circa il 25-30% del totale, quindi avere un'esposizione sui titoli di Stato italiani in linea con questa percentuale è sostanzialmente essere in linea con diciamo la distribuzione di tutto il debito. Il peso dell'economia italiana in tutta l'Eurozona, in sostanza? Sostanzialmente sì, in realtà prende a riferimento il debito, che per l'Italia è un po' più alto rispetto ad altri paesi, però diciamo rappresenta diciamo con una buona approssimazione quello che è il peso di ogni paese all'interno dell'Unione Europea. attualmente noi non siamo dell'idea di ridurre, diciamo, ulteriormente il peso dell'Italia, quindi sostanzialmente non crediamo a un default del nostro paese. Quello che bisogna mettere in conto per i prossimi mesi è che dovremmo convivere con un livello di volatilità piuttosto elevato, però riteniamo che nel medio termine i titoli di Stato italiani possano rappresentare una buona opportunità di investimento, sempre nei limiti e nell'ambito di una certa diversificazione del portafoglio. Certo, ecco, almeno così certo la pensano i grandi investitori istituzionali, che evidentemente hanno anche le coronarie un po' più forti rispetto ad un piccolo risparmiatore, e quindi sono in grado di presentarsi sul mercato cercando di spuntare rendimenti appunto più alti, chiedendoli in maniera molto vigorosa. Questo spiegherebbe, Antonielli, chiedo a lei un giudizio tecnico, anche l'ottima riuscita delle aste di ieri. Il Tesoro italiano ha collocato 8 miliardi di bot a 6 mesi, 3 miliardi di bot a 3 mesi e 4 miliardi e mezzo di CTZ a 24 mesi, tutti appunto con rendimenti piuttosto sostanziosi, però complessivamente il Tesoro collocava 15 miliardi e mezzo di titoli. Il mercato ne ha chiesti 27 e mezzo quasi. Questo significa che è anche, come dire, il panorama degli investitori che sta cercando delle buone occasioni di rendimento, evidentemente. Ma certamente l'asta di ieri è stata un successo, con un ammontare richiesto molto superiore a quello offerto, ed ha tratto vantaggio dal miglioramento delle prospettive, come dire, di un po' tutto il debito europeo creatosi in questa settimana dopo gli eventi del weekend, in cui sostanzialmente i leader mondiali hanno fatto grossa pressione su quelli europei perché mettano in essere ulteriori misure per far fronte alla crisi, per cui, come dire, il rischio di contagio, il rischio sistemico in qualche maniera questa settimana appare calare. Il problema dell'Italia, ahimè, è che le aste ne abbiamo una alla settimana, questa settimana abbiamo due, nel senso che giovedì ne abbiamo un'altra. Tra l'altro di titoli un po' più lunghi, quindi più lunghi e per 9 miliardi, esatto, quella di oggi era quasi trascurabile, infatti. Esatto. Come dire, gli esami per l'Italia non finiscono quasi mai, nel senso che ogni due settimane almeno abbiamo un esame, deve rifinanziarsi, per cui è fondamentale che il mercato percepisca che l'Europa o la Banca Centrale Europea, ad esempio, o meglio ancora in verità il governo italiano, sono in grado di mettere in atto tutte le misure per evitare problemi al settore pubblico. Chiaro, l'aiuto dei paesi dell'area euro può arrivare tramite il Fondo Salva Stati, l'aiuto della Banca Centrale Europea è arrivato in agosto e continua tuttora con l'acquisto dei titoli di Stato italiano. È chiaro che un grande aiuto viene anche dal fatto che l'Italia ha finalmente fatto una manovra un pochettino più credibile, che ci porta al pareggio di bilancio nel 2013. Bisogna operare un po' su tutti e tre questi fattori per creare ulteriore fiducia nel mercato e far sì che finalmente i nostri titoli vengano collocati con grande facilità a tassi più bassi. Allora, intanto andiamo alle domande degli ascoltatori, poi preparo il terreno ai nostri due interlocutori su un tema che mi ha incuriosito, che per la verità non mi aveva appassionato molto, poi però vedo che qualche ascoltatore invece ce lo sollecita. Volevo chiedervi con quanto interesse avete guardato a queste dichiarazioni di questo Alessio Rastani, che sarebbe questo trader indipendente che lunedì ha scioccato tutti confessando alla BBC di avere sognato il crollo di tutto il sistema economico europeo per via dell'arricchimento che a lui personalmente ne sarebbe arrivato. Stava aspettando il crash da almeno 3 anni, ha scritto su Twitter, e questo naturalmente ha scioccato un po' tutti, ma chissà quanti addirittura auspicano uno scenario del genere per guadagnarci molto. A me uno scenario del genere non piace per niente, però insomma magari le percezioni sono diverse. Sentiamo Fabrizio da Firenze. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Una riflessione, ecco, che per me è molto importante. Io ho cercato di fare un investimento per quanto riguarda la parte obbligazionaria del mio portafoglio molto concreto e poco emotivo, nel senso che ho comprato un CCT a tasso variabile con scadenza 2015 e un BTP lungo con scadenza 2033. Nel senso che Io penso che ci sia, che tutta questa liquidità che sta messa nel mercato si tradurrà poi pian piano in una sorta di inflazione e quindi il tasso variabile mi preme da questo punto di vista. Mm-hmm. Per quanto riguarda il BTP lungo, e qui appunto ecco è la riflessione che facevo io l'ho fatto. Ma quando l'ha preso Fabrizio, sì, tanto per capire? L'ho preso diciamo anche 5, 6, 7 mesi fa, ma io l'ho preso nella prospettiva di portarlo a termine per avere il flusso cedolare, sì, che poi mi serve da reinvestire. Ma di fronte a questo tipo di scenario io onestamente diciamo rimango piuttosto sereno, nel senso che nell'eventualità che si ipotizzasse il default, e quindi cioè nel senso che non mi viene restituito il mio BTP o quant'altro, io penso che quel giorno l'ultimo problema che io ci possa avere, glielo dico un fiorentino, però sarà la restituzione problema, l'ultimo problema è ciò e sarà il mio BTP, ha capito che cosa le voglio dire, no? Ma guardi Fabrizio, sì, anche se non l'ha detto con grande chiarezza, abbiamo capito, certo avremo a che fare con tutt'altro, sono mosse popolari, quello che sta accadendo in Grecia, magari la perdita di tanti posti di lavoro, non lo so, io non lo voglio neanche così immaginare uno scenario di questo tipo, però insomma Filippo Alessio Rastani l'ha fatto, così come magari qualcun altro. Detto questo, andremo a dare un'occhiata un po' più dettagliata al suo portafoglio per capire cosa ne pensano gli esperti, perché effettivamente comunque anche i più come dire sereni sulla situazione del debito domestico, del debito italiano, comunque non suggeriscono con grande vigore le scadenze trentennali, le scadenze lunghe, e preferiscono suggerire appunto un posizionamento invece su scadenze a breve e medio termine. Titoli di Stato italiani, che tipo di convenienza hanno adesso? Qual è l'approccio corretto che un piccolo investitore dovrebbe avere nei confronti degli strumenti di casa nostra? Stavo intanto riguardando gli acutissimi sempre pezzi di Isabella Bufacchi, c'è un'analisi questa mattina sulle Sole 24 Ore che fa un po' un paragone sui rendimenti dei titoli a 6 mesi dei vari stati italiani, mentre il nostro bot a 6 mesi ha spuntato un rendimento appunto di oltre il 3% ieri, 3,07%. A fine agosto questo titolo aveva dovuto remunerare sul mercato appena una quota superiore appena al 2%. Beh, i paritetici degli altri paesi riconoscono, pensate, quello francese per esempio lo 0,38%, quello spagnolo, che era quello un po' più in una situazione preoccupante qualche mese fa rispetto a noi, adesso invece riconosce il 2,66% lordo, per cui effettivamente anche sul fronte delle scadenze brevi abbiamo come dire un giudizio di rischio più elevato, ma ancora per gli esperti siamo appunto in una situazione di relativa tranquillità. In tutto questo il nostro ascoltatore si è portato a casa appunto un BTP trentennale, che adesso do un'occhiata alle tabelle per esempio pubblicate dal Corriere della Sera proprio questa mattina, ammettendo che abbia comprato il titolo che ha scadenza settembre 2040, questo titolo riconosceva un rendimento lordo del 6,43%, che sicuramente insomma vista in un'ottica di questo tipo è ovvio che non è per niente conveniente, però in tutto questo la fortezza, lui dice, io intanto mi porto a casa le cedole e do questo segnale di fiducia anche al nostro paese, perché tanto qualora anche fallisse, insomma questo della, come dire, della restituzione del BTP sarà l'ultimo dei miei problemi. Cosa ne pensi di questo approccio di questo investitore? Ma diciamo la valutazione di fondo può essere anche corretta, perché se effettivamente arrivassimo mai a un default del nostro paese, effettivamente avremmo tutti tanti problemi ben più grossi di occuparci del nostro titolo, che probabilmente deve essere ristrutturato. Quello che diciamo è meno condivisibile è l'approccio diciamo al tipo di titolo che il cliente, che l'investitore è andato a scegliere, nel senso che corretto l'ipotesi di un CCT se l'aspettativa può essere quella di una aumento graduale uscita attraverso diciamo un'inflazione più alta di quella attuale, meno lo è quello di andare a comprare un BTP trentennale, considerando che i rendimenti di un titolo di Stato tedesco a 30 anni sono sostanzialmente sui minimi, quindi si va a comprare sostanzialmente un titolo ai massimi. Se consideriamo solo la parte rendimento, poi ovviamente sull'Italia c'è tutta la componente spread e quindi si va a comprare sicuramente un rendimento più alto. In quell'ottica forse avrebbe più senso diciamo puntare o su un BTP legato all'inflazione o comunque su un BTP con una scadenza più breve, nell'ordine dei 5 anni, che comunque in questo momento dà rendimenti vicini al 5%. Tra l'altro, mi scusi la fortezza, che così, tanto per farlo capire anche agli ascoltatori che magari non hanno mai visto neanche dipinto un BTP trentennale, che flussi cedolari riconoscono questi prodotti? Facendo, non lo so, per esempio ammettendo di aver investito 10.000 euro in un prodotto di questo tipo, appunto, periodicamente che cedole riconoscono? Beh, generalmente sono titoli che hanno cedole tra il 4 e il 5% annue, poi il BTP paga semestralmente, quindi sostanzialmente ogni 6 mesi c'è un flusso cedolare lordo che è tra il 2 e il 2,5%. Ovviamente se l'investitore ha comprato il titolo non a 100, che è il valore di rimborso, ma a 70, 80, ovviamente il rendimento aumenta, perché io avrò sì il mio flusso cedolare che rimane costante, avrò anche una differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso, che costituisce comunque una parte del rendimento poi del titolo. Allora andiamo a Riccardo da Rovigo. Riccardo, rapidissimo, grazie, così riusciamo magari anche a sentire Gino da Macerata. Riccardo. Volevo fare un discorso più lungo, comunque molto rapidamente. Grazie. Io ho venduto dei BTP proprio ieri via internet, scadenza 2018, ti ho smenato il 6,25% perché ho preso paura, avevo bisogno. Io non so cosa fare, io ho altri BTP in portafoglio e non so cosa fare, perché mi ha preso la tremarella, io ho venduto e ci ho smenato il 6,5%, una roba spaventosa. Cioè, quando l'aveva preso, no, Riccardo, questo io così? Io, pur essendo un po' esperto di finanza, perché qui davanti sto valutando il MOT di Milano, ci ho sempre smenato, ho dato fiducia ai fondi e ci ho smenato. Se tenevo i miei soldoni in cose pratiche, tipo immobili o oro, ci avrei preso sicuramente. Riccardo, col senno di poi, sa, siamo sempre tutti quanti bravi, però chi può dirlo? Detto questo, allora dipende intanto che tipo di necessità aveva il suo portafoglio. È chiaro che tutti quanti accantoniamo con l'obiettivo di proteggere il nostro capitale e magari di farlo crescere un po'. Detto questo, insomma, dato lo sconforto del nostro ascoltatore, sembra non aver azzeccato nessuna strategia di investimento. Roberto Antonelli, colpa del consulente al quale si è affidato, ma mi pare abbastanza orientato al fai da te, Riccardo, perché ci raccontava che stava davanti al computer, insomma, la piattaforma. Ma qui, come dire, valgono un po' le regole auree dell'investimento, che l'investitore da solo o con l'aiuto di un consulente dovrebbe cercare di chiarirsi bene quali sono i propri obiettivi, qual è la propria propensione al rischio e creare un portafoglio sufficientemente diversificato. Ecco, io per coprire la maggior parte dei rischi possibili. Io sono rimasto colpito dall'ascoltatore di Firenze che ci ha spiegato benissimo perché si è comprato un 30 anni, perché lui vuole le cedole e lo vuole portare a scadenza, per cui ha chiarito qual è l'obiettivo, ci ha chiarito che non ha paura della liquidità, della necessità magari di doverlo venderle in anticipo rispetto alla scadenza. Ecco, il mio punto però è questo, non sono d'accordo che se il BTP fa default, se l'Italia fa default, il BTP è l'ultimo dei nostri problemi. Certo, nel dipende quanto ci abbiamo anche investito, ovvio, perché se tutto il nostro patrimonio è là, poi se è ben diversificato tra la casa, tra un fondazionario in altri paesi, se abbiamo anche ovviamente investito, certo. Esatto, per cui la diversificazione in questa fase mi sembra fondamentale. È chiaro che diversificare nei titoli governativi dei paesi più solidi, come citava lei, la Francia, la Germania poco fa, vuol dire investire a dei tassi che coprono malapena le spese. È chiaro che chi ha una propensione a rischio bassa e vuole comprarsi un'assicurazione, proprio nell'ottica di un'assicurazione, cioè la protezione da un evento poco probabile, no? Che l'Italia faccia default, ad esempio, ma che potenzialmente può essere disastroso. Per cui, come dire, in quest'ottica la diversificazione anche in titoli di paesi più solidi, dell'area euro più solidi, o magari in titoli denominati in una valuta diversa dall'euro, può essere un modo per dormire un po' tranquilli. Ecco. Certo. Non si pretende di fare chissà quali guadagni, anzi si sa che sostanzialmente si paga un premio, però si dorme un po' più tranquilli. Stiamo terminando la trasmissione, gli ultimi 20 secondi li assegno a Felice La Fortezza, perché abbiamo detto prima come oggi sia andata bene l'asta dei BTP legati all'inflazione, domani però c'è un'asta decisamente più impegnativa dopo la bocciatura di Standard & Poor's per il nostro debito. Ci sono in offerta BTP brevi 3 anni e lunghe 10 anni oltre che ai CCT quinquennali legati al tasso Euribor. Che sensazione avete? Come andranno la fortezza in 30 secondi? La sensazione al momento è positiva, nel senso che c'è un tono di fondo che è decisamente migliorato rispetto alla scorsa settimana. Il problema è che può bastare un nulla a invertire completamente, diciamo, l'umore del mercato. Quindi purtroppo, come diceva prima il collega, l'Italia ha emissioni continue e deve rifinanziare il 25% del proprio debito quest'anno, quindi sarà un esame continuo ad ogni asta. Benissimo, allora sosterremo gli esami, perché tanto gli esami non finiscono mai. Grazie a Felice La Fortezza e Roberto Antonielli di Banca Intermobiliare, Roberto Antonielli di Allianz, per essere stati con noi. Tanto Salvadanaio torna domani. A tutti buona giornata.